Piazza 24, i gialli della storia. Da quello a Tigre è successo che la sera hanno parlato, lui era incazzato, diceva no, non lo posso perdonare, bisogna fare qualche cosa. E subito Renzo Nuvoletto disse si deve ammazzare a questo giornalista. Subito dice perché noi non possiamo dare un'immagine di noi sbagliata alle persone, anche per la Sicilia. Che possono pensare se i siciliani con questi articoli, se Salvatore Rina o Bernardo Provenzano. E allora si parlava di dare un'elezione, cioè a livello di nelle gambe, sai, qualche cosa così. Dice no, dobbiamo ammazzarli e basta. Sono parole del pentito di Camorra Ferdinando Cataldo. Parla del giallo della morte di un giornalista, Giancarlo Siani, 26 anni, un giornalista precario del Mattino. Il 23 settembre dell'85 a Napoli, tre killer senza volto lo uccidono mentre torna a casa guidando la sua Citroën Meade. La amoretta era marito d'aspettia, e no per altro no. La amoretta era marito d'aspettia, e no per altro. Siani comincia giovanissimo. A Napoli, a Castellammare, scarpinando tra i meandri di Torre Annunziata, ha frugato tra i fatti di cronaca, ha indagato sulla camorra. Eppure il suo omicidio è un rebus, un giallo apparentemente senza spiegazioni. Come raccontano i nostri microfoni i suoi amici e colleghi Francesco Romanetti, Daniela Limoncelli. Ma mi dubito, caprim, mamma Maria. Nel clima comprensibile di quella sera cominciamo a fare delle ipotesi fra di noi. E non avevi chiaro neanche il motivo fino in fondo in quel momento. Giancarlo lavorava da 3 mesi alla cronaca di Napoli, ma la maggior parte del suo lavoro, anche negli anni precedenti, lo aveva svolto a Torre Annunziata. Una città dove la camorra era ovunque. E no, per altro no. Aveva raccontato la realtà sociale difficile di Torre Annunziata, aveva raccontato la camorra di Torre Annunziata. Tutti sapevamo che era stata la camorra, perché era... che cos'altro poteva essere a Napoli in quel momento, in quel periodo? La camorra. Aveva raccontato dei clan camorristici, del clan di Valentino Gionta. Ma la camorra non aveva mai ucciso un giornalista. Ma nulla pozza sciara così bella come a te. Un omicidio senza precedenti che per molto tempo rimane senza mandanti. Un delitto strano a cominciare dall'arma usata. Finché a sbloccare le indagini non arriva la conferma di Ferdinando Cataldo, un pentito del clan di Valentino Gionta, che avrebbe dovuto uccidere Giancarlo Siani. Giancarlo Siani è stato organizzato l'omicidio non una calibra 9, attenzione, perché guarda, la calibra 9 è per i mafiosi, insomma, è una cosa importante ammazzare uno con la calibra 9, no? Fai capire che tu sei potente anche come arma, come Kalashnikov e tutto questo. Giancarlo Siani è stato organizzato con una 7,65. Comune, per non far capire, e lo dicevo che stanno ammazzati per la macchina. Per l'indagine è più difficile a capire dove arriva. La magistratura, cioè, non capiva niente, dice questo può essere anche una cosa di donna, si diceva una cosa di donna, qualche marito geloso, perché è una persona comune 765, non un agguato con la moto, oppure un agguato, sai, una macchina che si ferma subito, no, un agguato pulito. Cioè tu, io aspetto a te, un'ora, 2 ore, sotto casa sua, grazie di Dio, cioè tu vieni, ti ammazzi e me ne vado. Per ben 9 anni, per una ragione o per l'altra, le indagini sulla morte di Siani non portano a nulla. E allora, per cercare di capire di più su questo omicidio, bisogna andare nella Torre Annunziata di quegli anni. A capo della compagnia dei carabinieri di Torre Annunziata c'era Gabriele Sensales, oggi un generale di brigata della riserva. Ricordo l'episodio emblematico a Torre Annunziata, fu proprio l'arresto di Cagliazzo, cognato di Giotto Valentino. Fu arrestato in un lido balneare di Torre Annunziata. Lui si era recato al mare e non solo aveva la sua dose di cocaina, ma aveva anche un mitra in una borsa, quindi lui andava a prendere il sole in spiaggia con un mitra nella borsa insieme a costume da bagno. Si affacciava in compagnia quasi tutte le mattine, aveva instaurato un rapporto di amicizia anche con i carabinieri che praticamente operavano sulla strada. Lui scriveva in maniera molto, molto seria, ma soprattutto onesta, diciamo. E Giancarlo si attacca a Sensales per poter stare in prima linea e raccontare dal vivo quello che sta succedendo nella sua città. Il 1979 dentro la Camorra si scatena una guerra. A fronteggiarsi sono due veri e propri eserciti, la nuova Camorra organizzata, la storica formazione di Raffaele Cutolo e la Nuova Famiglia, un cartello di clan guidato dalla famiglia Nuvoletta, legata alla mafia siciliana. I Nuvoletta hanno tra i loro alleati anche il boss emergente di Torre Annunziata, Valentino Gionta, ancora il pentito Ferdinando Cataldo. Gionta, Torre Annunziata, è uno quatale, un boss di Torre Annunziata, non era l'ultimo arrivato, aveva una famiglia di 20-30 persone, ma tutti chi l'è, non erano persone, tutti mafiosi, cioè era un capoclan, proprio quelli capoclan che ci tenevano per gli uomini suoi, cioè, capito? Perché poi alla fine una famiglia, cioè, in pratica anche se non era parente a Gionta, lui non era parente a me, però era una famiglia. Cioè, perché il giorno ci è cresciuto un po' tutti quanti insieme da ragazzini. E io come, e loro conosceva mia madre, che conosceva la mamma di uno, cioè, e lo giorno voleva che lui stava bene, sempre uno che si è preoccupato di tutto. Se tu dovevi fare un reato, per esempio, dovevi ammazzare una persona, anche se andava due persone a ammazzarla, però comunque John ti mandava 3-4 persone di copertura, cioè si preoccupava. Su questo lato io ho buoni ricordi di John, cioè, non posso dire che è una persona malvagia oppure una persona... Il progetto di Gionta è un progetto di natura diversa, se noi facciamo la malavita, no? Insomma, siamo, ci chiama la vita tutti i giorni, o le gas, o quelle che sia, però per esempio noi dobbiamo fare 7-8 anni questa vita, poi dopo ognuno di noi che ha qualcosa di soldi, si apre un negozio, un palo, qualunque cosa che si poteva gestire i soldi, spocche, pulite, cioè così facciamo una vita diversa, se non ci tocca più e facciamo sempre la malavita, però più pulita. Personaggio. Quando qui si facevano le sigarette, Gionta significava pure lavoro, in passato sto parlando, poi sono successe tante e tante di quelle cose, lavoro tra virgolette però, si capisce? Ed è in questa realtà che Giancarlo Siani muove i suoi primi passi come giornalista del Mattino, come ci dice il suo collega Goffredo Buccini. Giancarlo aveva, per l'età che aveva, una rete di fonti e di rapporti che è difficile avere a 25-26 anni, e questo gli deriva certamente dall'impegno nella società, con i sindacati, con la gente più povera, insomma. Siani è sulla giusta pista, è ormai inserito nel tessuto sociale di Torre Annunziata, ha i suoi contatti e lavora a stretto giro con le forze dell'ordine. ma soprattutto ha capito qual è il cuore degli affari del capoclan di Torre Annunziata Valentino Gionta, il mercato del pesce, e lo scrive. Ma Gionta non ricicla il denaro solo con il pesce, ancora il pentito Ferdinando Cataldo. Centrale Senato c'erano degli articoli sulla famiglia di Valentino Gionta, sulla moglie. Valentino Gionta certamente si è arrabbiato quando si è messo nel commercio con il negozio di firma per gialli, insomma, con i vestiti. Anche quella dei negozi di vestiti era una delle coperture per riciclare il denaro sporco. E anche questo Siani lo scrive. Poi alza ancora il tiro. Dopo una serie di articoli in cui attaccava il boss Valentino Gionta e i suoi metodi di riciclaggio attraverso il mercato del pesce e i negozi d'abbigliamento, Siani comincia a indagare sui rapporti tra la camorra e la politica. Ne parla il generale Sensales. Giancarlo, nell'ultimo periodo di permanenza sua a Torre Annunziata, mi accennò anche che stava facendo un accertamento nei vari seggi dove vi erano state le votazioni amministrative a Torre Annunziata, per fare un po' la mappatura dei personaggi che erano stati votati. Gli feci capire che non era il caso di fare questo tipo di accertamenti proprio per evitare di incorrere in guai giudiziari, ecco, anche perché ci aveva visto bene, le stesse indagini le stavo facendo pure io come compagnia di Torre Annunziata, come compagnia dei carabinieri. L'intuizione di Siani è che dietro Gionta ci siano intrecci tra la camorra con il riciclaggio e i politici, cioè un intreccio politico-affaristico anche con l'amministrazione pubblica. Il boss, insomma, può contare su appoggi molto, molto importanti. Giancarlo Siani aveva capito questa triangolazione tra camorra, politica e, c'è da dire, con un'autorità giudiziaria locale che rispondeva un po' a rilento a quelle che erano le esigenze di interventi operativi. L'ascesa di Gionta sembra inarrestabile e questo comincia a dare fastidio anche agli stessi alleati della nuova famiglia. I suoi alleati, Nuvoletta e Bardellino, decidono che è necessario ridimensionare quel boss. Bisogna dargli una lezione e la lezione sarà durissima. Il 26 agosto dell'84, 15 uomini armati arrivano sotto casa di Gionta, in pieno centro. Sparano all'impazzata con mitra, pistole e fucili a canne mozze. Il bilancio è 8 morti e 12 feriti. È l'inizio di una guerra. Ancora il pentito Ferdinando Cataldo. Il messaggio è arrivato subito, comunque si sapeva subito dove venivano, anche perché un mio ex amico aveva la pistola addosso. Ha risposto a fuoco, rispondendo a fuoco ha sparato a un killer. Si sapeva il killer che era perché l'hanno portato a un ospedale. Il giorno dopo si era tutti quanti nel rione dicendo: ragazzi, questa è una guerra lunga e pericolosa. Siamoci chiusi dentro, scendiamo solo per colpire. Da oggi in poi possiamo essere ammazzati tutti i momenti e noi possiamo ammazzare tutti i momenti. Da quel momento ci abbiamo chiuso, scendevamo solo per uccidere. uccidiamo e andavano a casa. Per rispondere abbiamo fatto atti morti per distruggere queste persone. Fra virgolette ci abbiamo imboccato le maniche, che anche malavitosa, cioè una cosa schifosa, però comunque l'abbiamo fatto. Sullo sfondo di questa terribile guerra c'è anche un altro importante bottino da spartirsi, le centinaia di miliardi destinate alla ricostruzione dopo il terremoto dell'80. Essiani segue anche questo importante filone studiando le delibere del comune di Torre Annunziata. Nel frattempo a Essiani viene offerta l'opportunità di una sostituzione estiva al quotidiano Il Mattino, e il ragazzo si scontra con una realtà piena di condizionamenti politici, diversa da quello che si aspettava. Racconta i suoi sfoghi Francesco Pinto, direttore dell'Osservatorio della Camorra. Citava la differenza del lavoro duro ma pieno di soddisfazione da noi e quello che faceva lì, dove appena cercava di fare qualcosa in più gli veniva detto cerca di stare tranquillo, insomma cerca di non dare fastidio. Il 9 giugno dell'85 una svolta clamorosa, i carabinieri arrestano Valentino Gionta che si nascondeva nella tenuta dei suoi alleati Nuvoletta, e il quotidiano Il Mattino affida la cronaca dell'arresto proprio a Giancarlo Siani. E Siani scrive: dopo la strage del 26 agosto dell'anno scorso, Valentino Gionta è un personaggio scomodo anche per gli stessi alleati. La sua cattura potrebbe essere il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per mettere fine alla guerra con l'altro clan di nuova famiglia, i Bardellino. Un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana. Per la Camorra è troppo, e lo racconta il pentito Ferdinando Cataldo. Da quella tigre è successo che la sera hanno parlato, non era incazzato, diceva no, non lo posso perdonare, bisogna fare qualche cosa, e subito Renzo Nuvoletta disse: si deve ammazzare a questo giornalista. Subito, perché noi non possiamo dare un'immagine di noi sbagliata alle persone, anche per la Sicilia, che possono pensare se i siciliani con questo articolo, se Salvatore Rina o Bernardo Provenzano. E allora si parlava di dare un'elezione, cioè a livello di nelle gambe, sai, qualche cosa così. Dice no, dobbiamo ammazzarle e basta. Per un boss della Camorra essere accusato di tradimento è inaccettabile. Ferdinando Cataldo, all'epoca braccio destro di Gionta, era presente al summit in cui è stata decisa la morte di Giancarlo Siani, e lo racconta così. Quando Gionta Valentino ha saputo che volevano ammazzare i giornalisti, lui si è ribellato dicendo: attenzione, dice, io vi credo a voi che non siete degli infami, anche perché se noi ammazziamo i giornalisti per fare un messaggio alla malavita campana o siciliana, quelle che sia, e l'indagine parte da l'Annunziata, a me mi distruggono i carabinieri e polizie, perché giustamente un qualunque carabinieri poteva prendere qualche articolo di giornale e poteva capire il movente. E Valentino non voleva questo. Dice: lasciamo perdere, questi sono giornalisti, fanno il loro lavoro, dicono un sacco di cazzate, che ci interessa a noi di ammazzare questi giornalisti? A un certo punto Lorenzo Nuvoletta disse: i carcerati devono fare i carcerati. Questa è una cosa che ce lo vediamo noi e noi abbiamo stabilito di ammazzarlo, basta. Dice quello che fu carcerato, che non si deve preoccupare. Quando Gionta ha detto: cioè, ormai non posso fare niente, cioè, diciamo, fra virgolette, ha fatto come Fonso Pilato, se allora lì, ma fate. Però una cosa, dice: non fate altro l'Annunziata, perché se succede altro l'Annunziata, la cosa mi distrugge. Appunto, io disse, se io essendo che sto qua, sono latitante, voglio partecipare anch'io a questo omicidio. Condizione di giunta viene accettata. Giancarlo Siani verrà ucciso a Napoli. Siani intanto ha continuato le sue ricerche, ha capito che ha scoperto qualcosa di importante, addirittura di esplosivo, ed è preoccupato. È il 23 settembre. Siani, dalla redazione del Mattino, chiama Amato Lamberti, direttore dell'Osservatorio sulla Camorra e ex presidente della provincia di Napoli. Mi disse, ti devo dire una cosa. E dice, vabbè, ma la puoi dire, no, per telefono non me la posso dire, sono al Mattino, sono in redazione, non te la posso dire. Io gli dissi, scusa, proviamo ad incontrarci allora là vicino, se diciamo è una cosa urgente che mi devi dire, perché mi sembrava, come dire, che lui mi chiedesse un incontro immediato. E lui mi disse, no, siamo troppo vicino al Mattino. Ci vediamo domattina, io prima di venire, di andare al giornale, vengo da te. Non sapremo mai quello che voleva dire Siani al suo collega. L'omicidio sta per essere realizzato. Intanto a Napoli c'è un grande fermento. C'è il concerto di Vasco Rossi. Altro che chiacchiere. L'unico che potevo conoscerlo venne sotto al Mattino con una scossa, si trovava a Napoli per fatti suoi. A meno che è uscito il Siani dal Giancarlo dal Mattino, lui è andato, ciao Giancarlo come sta, l'ha abbracciato, andiamo per un caffè. Intanto da lontano hanno visto chi era Giancarlo, di chi l'è, e l'hanno riconosciuto, cioè beh, lui. Alle 9 della sera basta un solo colpo di pistola per concludere tutto.